Mettersi al mondo senza togliere indumenti, fare canzoni senza aiuto di strumenti, versi racchiusi in un minuto, giusto un paio di elementi, ho tessuto le emozioni e le menti. Non chiamarla rap, è solo musica, anche se qua non c'è una chitarra acustica, né un violino, né un basso, né un'arpa, né un sax, e nemmeno un piano, ma ci sono solo rime calibrate, sei con un piano molto preciso. Sì, però se non ascoltate, mi addosserò la colpa e mi dichiarerò colpevole al processo. Cattivo, qualcuno storcerà il naso. Beh, correrò a rischi pure stando fermo, in quel caso farò un cazzo per i tradizionalisti, suonando le corde vocali con un platter se vado in radio. O c'è qualcosa che non va, o solo un'illusione, non mi farò pubblicità, ma se vado in radio nella vita perde il treno, se tu cambia stazione. Concerti la foto, i concerti la forma, le parole, gli stili. Se concerti testi in bocca la folla si incolla senza che tu parli di nostri adesivi. Può darsi che non hai scritto una bomba di canzone, eh no amico. Può darsi che hai dato vita ad un'emozione, hai capito? Se, se, se. Small I fight.